i cappelli, siamo entrati in chiave a pigliarti il caffè, se pigliamo il caffè anda a giocare la macchinetta, poi dopo punto va anche quella. Ma è un brutto vizio, perché come vici puoi anche perdere. Mio padre diceva sempre, con i soldi in tasca hai sempre vinto, ricordati questo. Il gioco è brutto, i soldi per guadagnare si fanno sacrifici, non bisogna buttarli così. E mi sembra che sono parole sagge, quelle lì. Ma chi c'è pazzia di nata ogni arugu? E se no non era bravo facendo i coltelli, mi le fattadesi. Me ne voleva dare una 100 euro a me. Ma tu raduvivi lì. Il giorno non ce li avevo i soldi, sennò avevo fatto l'affari. Fatti a mano da lui, mi. Cazzo, tu le dovevi vedere. Una volta ne ha fatto una gigante. Tutta con le cose in argento, chissà che abita via commissionata. Vabbè, io adesso mi saluto, che devo portare in carica, è già tardi, questo si sta lamentando. Vabbè, dai, ci sentiamo, grazie per il PSO, rilancio tutto quanto a Claudio e poi fai girare, dai, avanti Claudio con la buonasera. E riprendo anche io un attimo, vi saluto, ciao Gianni, ciao Natalino che sono ai fornelli e se c'è qualcun altro poi sono in ascolto o al limite dopo cena. Buona serata a tutti. Vabbè, riprendo io, dai. Salutoni Gianni, Claudio, non so se c'è Luca, riprendi Luca per i saluti. Luca è andato. Vabbè, me ne passo anch'io in QRT allora, dai. Salutoni gli eventuali ascoltoni, alle prossime. Ciao Natalino, ciao a tutti quanti, dai, ci sentiamo, buona serata. Cazzo va sta cosa? Mi arrangio, senza problemi. Lo casino, io l'ho piazzato io da quanta quella roba mi. Il sifone, così. A Gianfranco gliel'ho fatto io, il lavoro. E sono, ma la verità mi ha pagato. Gli ho fatto queste tappe. Ah, beh, grazie, potevi fare. No, ragazzi, se no, io sono uscito. Andà a fare lo travaglio. Quindi tu mi devi pagare. Ah, la verità è che mi ha dato anche. Tutto onesto, mi ha dato anche un po', a fare tutto questo travaglio. Ma tu stai facendo male? Non mi facendo male. Ora, ora. Fai un rumore. Ma adesso c'è un rumore? Sì, alternata. Cazzo di alo, boh. No, a vedere. Adesso no. Esce un cazzo dello microfono, che me. Mi sta rompendo la scatola. Ah, la tua zappa ed è parito. Cosa vuoi che ti dica, boh? Ritorna. Guarda, beh, ce lo fa ancora. Sì, cosa sta facendo? Ma ci dammi di coglioni, mia. Oh. Eppure non pare. Ora, ora. Non pare, mi aspetta. Aspetta. Così lo senti, ah? Massimo, un minimo. Sono Antonio, chiamo Calvino e me lo faccio vedere. Aspetta, Antonio, allora. Aspetta, che cazzo sei, bombolino? Beh, fa passare. Oh, e tre prova, guarda poi ce lo fa ancora. Continua. Continua. Non sarà l'alimentatore. Ah, sì. Continua. Facendo le 7, le 8, le 9, 10, 11, 14, 6 ore. Poi sono andato a accenderlo, si sentiva o non si vedeva. Così mi. Lo sono sistemato di nuovo. Tutti i coglioni quando è così. Ormai già ce l'ho di scorta. Antonio, cazzo, sto facendo male. Un'alternata, ciao. Alternata, tendi da un microfono, la radio. Ah, boh, Antu. Antu ci sei? Boh. Boh, si sa se da alimentatore, da microfono. Lo so, là. Mi aspetta. Senti però, soddisfatto? Hola, hola, hola. Continua. Guardate a me se lo fa ancora, questo è il microfono normale. Non lo fa, non lo fa, perché c'è il microfono di merda che c'è. Ma non lo sta facendo? No. È un microfono, aiuto, l'alimentatore. Ma il microfono è, non dicevo, è duro il microfono, originale. Questo è quello originale, vedi che non ne prende. No, vabbè, ma quel microfono c'era sempre un difettuccio. Ogni tanto mancava del radio, già da quando l'ho comprato, lo sapevo già. Però non lo sta facendo, e quindi cos'è? È un microfono, ecco. Questo è il microfono normale che è un microfono normale questo. paio di parolacci mi dava. Hola, hola. Ah, Ghiccio non è tanto performante. Ma... No, qui mi sto facendo un problema. Dopo il cavetto, poi confermato, lo metto a posto io. Non lo avevo già fare da prima. Prima hai comprato quella radio, poi non l'abbiamo fatto. Però l'MC60 ti sta creando problemi, attento. Colonnina io se lo fanno perché mi rientra a me, lo sai, mi rientra subito a me. Vabbè, dai, comunque la purificazione è una bomba, Una cannonata, certo. La banda, le mulini delle associazioni. Rimani secchi, quindi non toccare più nulla. Non è che ne tocca Natali, torna a casa e mi così cosa è il busumbraio. No, evidentemente c'era il connettore invertito, dai, magari non è nulla. Ma scusa, ma no, non ero Mattesi. No, evidentemente c'è. Avevo invertito quello che va al microfono era alla radio e viceversa. Se tu guardi lo spiralato, c'è una punta più lunga e una punta più corta. Quella più corta va alla radio, quella più lunga va al microfono. E io l'ho girato, io adesso ho messo quella più corta dietro il microfono e quella più lunga la radio e va bene. Ma c'è anche l'usci, ma dici che non è l'usci. No, fai con la verticchia, la prospera l'hai pigliato. Ma funziona in divea la grande. Diciamo che cavaggia sei tu. Comunque c'è una storia col microfono di alto, capito? Vabbè. Una storia col microfono. Però lascialo così perché c'è una radio spettacolare. Non c'è niente da dire, bella, forte, chiara. E poi bella radio nuova, tu cazzo no. Mi dicevi, quando ti sento così parto subito in quarta, nel senso che sono altre cose ma non è la radio. Cioè quella radio ti ho già spiegato che prima di comprarla tu è rimasta qua 15-20 giorni e ti dico che non ha fatto un difetto, una cosa allucinante, bellissima. No, ma non sto dicendo quello, no. Io stavo dicendo che mi è già capitato che c'è un microfono, mica sono stupido. Infatti, già si è attento a queste cose, ma quando farò una alternata, ricordatevi sempre, è sempre un problema di connessione. È difficile che può fare alternata la radio a 220, allora sì, allora è partito il trasformatore, ma quando parliamo di 12 volt è tutta roba di connessione microfonica. Cappa. Eppure non mi sono mai ascoltato un chitarradio, lo sai. Come dei gufi, l'attacchi al baracchino senza antenna, l'attacchi al baracchino, ti metti le cuffie dietro, dove c'è l'ingresso delle cuffie e ti ascolti. E poi mi dai la risposta, vedi. Gappa, gappa. Sì, c'è Marina. Continua. Se non mi dico Luca, io dopo non ti posso registrare. Fate un WhatsApp, Luca, e faglielo sentire a Natalino. Fateglielo sentire a Antonio a modulazione. E io non ho la possibilità di registrare. Magari Lucas. Tu fate un WhatsApp, Antonio. Ehi, a cappa, dai. Ma state su WhatsApp, mi mandate. Sì, a Luca è venuto perché avevo un buon nome, ho mandato WhatsApp. Ci devo girare il giro che in questa stanza è alle 20 e dopo una mezz'ora non arrivi. Hai problemi di connessione? Sì, e non vedo ogni tanto che ti rispondo dopo due giorni. E certo, problemi di connessione. Stiamo aspettando sto cazzo di Wind. La Wind? Sì, deve mettere una cella. Ah, ecco. Diciamo la cosa è stata, abbiamo fatto la richiesta di 50. No, tu c'hai la Wind, c'hai, così è. Sì, Wind 3 abbiamo noi. E anche io. E non so se c'è la cella, qua non c'è. Non lo so. Ho capito. È 4 anni e hanno finito qua di fare tutte queste case, quindi adesso vediamo se ci danno l'assistenza. Ma è buono, io viaggino, ti fai pagare. No, devo gli mettere le balle. No, metterlo nella collinetta e poi vediamo, ci quoteremo, non lo so. Dice che venivano a fare un sopralluogo, ma siamo mai giunti. Cappa. Allora sai? Ah, ecco qua. Ti stavo dicendo. Ma ecco qua. che ti faccio sentire. Anche come... Sentami per la televisione che Antonio che è sempre a maletta questa televisione. Aspetta, registro io, aspetta. Gappa, gappa, claro, non ti preoccupare. In quelle zone già ho capito dove è più o meno. Una zona nuova, sì. Ma tutto che hanno finito tutto qua, il passaggio alle fogne, il passaggio alle cose, capito? Quindi adesso vediamo se ci hanno la mano. Spero di sì. Adesso io, aspetta, adesso io non lo metto registro. Vai. Gappa, guarda a vedere come arrivo Claudio con questa modulazione, sente bene, no? Questo qua. Allora, chi è che mi chiamava poco fa? Gente, l'hanno da arrivi. È un problema, vediamo, forse ti è arrivata. Oh, sono tornato 4005. Forse ti è arrivata. E capirà che sono tornato. Ho detto, sono tornato 4005. Ah, adesso comunque sono tornato, maracchino. Mira tu, va su, dai, ti è arrivato. Una bella modulazione, una bella corposa, quello è il telefono, quindi alla mia si sente ancora più forte. Ti arrivo, Claudio, con questa modulazione. Ti farà male. Allora. Hai detto che bella. Ah, ma non me l'aspettavo che era così, eh. Segnale 9.15, quasi 9.20, radio sempre 5. Ehi, lo sai che faccio un capo indirizzato in chissà cosa? Tu, se li metti la Smartec. Natalino deve parlare con l'attenuatore. Ti faccio pagare lo smith, bombolino, bomboletto. Pura macchina va a me, quando attacco già rusai. Sì, ma fate te la terina, non è buona, buona santena, la giocate due. Boh, vediamo. Non dico niente. C'è un bel segnale Antonio, mica Antonio usa 4 watt e 9.5 come l'altro giorno la fate la potenza, e 9.20 mi. Non dico niente io. Non dico niente. Io pongo la Smartec da voi vediamo. Sì, sto dicendo adesso tu in quelle condizioni avete quasi la stessa antenna, mi sembra, capito? Però Natalino, tenete conto che io sono fuori sasso, vedete che voi giocate lì in zona, tu Gianni come ti si chiama, un profeta, Luca, Gianni Occhio, siete tutti lì, non potete giocare. Se chiedete i controlli a me, io arrivo giù se mi, perché sono distante da voi. E Natalino quando va con la bottezza è 9.20 qua, attenzione. E c'ho l'antenna capottata. Quando metto l'antenna a 4 metri più in alto e l'antenna è buona, no sotto accordatore come sono adesso, allora le senti le matracche. Ma come te ne intendi tu, te ne puoi sentire pure io, mio Natale. Ehi, ma io mai di potenza non ne ho, capito? Non ne ho. E la mia è c'è un metro dal tetto, io sono in basso. A me non me ne frega nulla di alzare la potenza, ti sto dicendo io, quando metto 4 metri di palo in più l'antenna nuova, la questione cambia. Cacchio se cambia, la voglia se cambia. Cappa, io già lo sai che non ha, cioè, fino a primavera non ho intenzione di far nulla. Ma dopo primavera, ma giù ne fumi a capo, lo sai tu. Cosa fate, vi faccio uscire fuori di testa tutti quanti. Giù a sala, Smartec a 8 metri, oltre 50 giorni, 8 giri, 16 metri, e poi sto spolverando quel bolivetto. Là, Ma io non ho mai attaccato il lineare, perché non ne ho qua e non lo posso attaccare neanche qua il lineare. Cosa mi la fuzzo di la potenza? Ma se guarda, con quell'apparecchio, con quell'altro apparecchio che avevo, quello col display grande, con quello lì mi ho fatto tutta l'Italia in DX, senza lineare né niente, da sopra a sotto in estate. Sì, ti ho chiamato, ma io ho l'arco 1000, ho il Palo 27 per i guacci, ho il Jumbo Aristocrat, per la 27 sempre ho il G27B, che è un grandissimo amplificatore, ho i due della RM Italy, il piccolo e il grande, è un amplificatore Natale. Però siccome io sono diventato talmente buono, non me la fotti più nulla, però se c'è da fare qualche prova io già sono organizzato, non c'è nessun problema. Fino adesso non mi posso lamentare, assolutamente, perché segnali che c'ho fuori Sassari sono strepitosi alla grande. È chiaro che voi giocate in casa, siete tutti attaccati, però state attenti, state molto attenti, che posso arrivare nuovamente come prima anche in città. Ma io lo so, io non ne ho mai attaccato, non mi interessa usare i lineari, e ce l'ho un mio. Basta che salgo in campagna, ne lo scendo e allora sono dolori. Cosa me ne basta di attaccare lì? Qua non c'ho neanche posto di mettere, non saprei dove mettermelo qua. No, non serve niente, infatti ci sentiamo, però capita che vabbè io ho portato la cerante sulla radio, però capita male, c'è qualche telefonante fuori, però ti ripeto, in questa zona sto iniziando a capire adesso, però con questa antenna veramente dei segnali allucinanti, veramente molto molto alti. E le prove si fanno, come vi ho già detto, fuori Sassari, non una attaccata all'altro, una attaccata all'altro, non serve a nulla in città, non serve a niente, capito? Perché poi arrivi 9.50 a Lucca, 9.60 a Natalino, 9.80 a Gianni Borfetta, e poi entra uno da 80-70 km da Sassari che ti mette di più. E quello non fa bene, capito? I problemi sono lì, bisogna arrivare bene da tutte le parti, un po' più basso da una parte, un po' più alto dall'altra, però l'importante è che ti sentano tutti, capito? E tu sono sicuro che da lì, come a Torino, perché il centro storico è favoloso, io facevo le prove con maestrale, conservatore maestrale, cattavamo lì, io a 50 metri d'altezza, lui era in via del Porto Torrese, ma a volte vinceva lui, la zona bassa è micidiale, soprattutto il centro storico. Per certe zone è molto favorevole, per certe no, tutto lì il discorso. Comunque io devo dire la verità, quest'anno mi sono divertito. Quando schiacciavo, che facevo, che c'era propagazione dal continente e cose, ero sempre a fondo scala. Guarda, già ti ho sentito, è stato qui, non sono venuto lì. Non ho visto, che stavi di Santiago Novi, Sorso, a me mi arriva 7, Franco, cioè, ti ricordo che però io c'ho un'antenna molto bassa, adesso infatti devo prima sistemare bene le antenne e poi vedere, fare le prove, perché ho anche la collinetta, mi posso spostare 20-30 metri oltre il giardino, anche 50 metri, e c'è la collinetta, mettere un palo alto lì e portarmi il cavo più lungo e recupero anche 4, 5 dB, ma non è importante, tanto, ti ripeto, è importante ascoltarci, per il resto non è importanza, non viene più mania di Avozza, ma sembra va che la può fare Avozza, noi siamo qua per farci due chiacchiere tranquilli, però per il vela. Io mi spavento dei segnali che mi arrivano qua e c'ho l'antenna bassa. Cata Lubrofetta mi arrivi in 1,60 in oggi. Cata Cosu, Bombolino, mi faccia rosicchiare. Figuremoci. Ma siete vicini, Napoli, siete vicini. Il problema è che io non ti faccio smettere, io non capito come sono lontano. Però ci sentiamo, ma cosa della futti? Ma io arrivo in tutto il mondo, capito? Io arrivo sino al centro Sardegna, cosa che qualcuno lo sa, sei, no, manco li sente, quindi è bello così. Coprivo un po' tutta la zona di Sassari, tutta la provincia di Sassari, ma anche la provincia di Nuoro, la provincia di Oristano, non dico la provincia di Cagliari perché è troppo lontano, però capito, quando tu già inizi a sentire un corrispondente, la zona di Ozieri, Oschiri, la zona di Coso, di Papara, Budusola, dei Sardi, tutte quelle zone lì, va bene, cosa di una frutti. Allora poi non ne parliamo, allora mi arrivano per più 20, quindi di cosa siamo provvedenti. È così, l'importante è ascoltarci. E infatti, adesso vediamo, già è una bomba in ricezione questo qui. Poi figurati con l'antenna nuova, dovrei sentire a tutti. Adesso io purtroppo non ho avuto modo di piazzarla perché ho altre cose più importanti da fare. Quando riuscirò a piazzarla vediamo un po'. Altari, io non devo chiedere permesso a nessuno, non ha giugato, non me ne fotti nulla, non sono più come prima, che ho sempre appeso l'anterrazzo, capito? E abbia bisuria, allora non me ne fotti nulla, c'ho altre cose da fare, sto pensando a abbellirmi a casa, a fare le cose che bisogna fare adesso, capito? Sto terminando il prato, sto facendo un sacco di cose, non mi interessa. Questa estate, che il tempo è bello, se le giornate sono più lunghe, ti muore rovecco, mi dà resina. Con poi, anche dalle 7 alle 9, anche alle 9 e mezza, anche alle 10, io c'ho il giardino tutto illuminato, il numero vecchio, il pantaloncino, il petto, ti fa piacere, ma adesso metterti fuori a lavorare, a 2 gradi, a 5 gradi, ma di cosa siamo vedendo? Me la potessero l'antenna a me, vai bombolo. E rimane chi mi rimane? Ah, che ti credi che io ho attenuto la gobbisuria? Se proprio non succede nulla, rimane i kiwi e se la biglia e luci. Quando comincerà a fare un po' più di caldo, credo di fare un qualcosa di diverso. Allora, la mattina aperta, alle 6 c'è già luce, l'estate, bellissimo. Arrovecco, pantaloncino, appetito, e sabato, vamos. A solo tre focosi ho fatto, se fatti io, di tutto e di più. Ma adesso non fa, non ti viene cuore, ma di cosa stiamo parlando, ma per che cosa? Passati un tubo, una gomma, mai si venga. Questa estate ci pensiamo, sistemiamo tutto, per bene. Ma ti ho comprato la verticale ancora imballata, la tarì, la 5 bande. Ah, c'è la stare lì, non me la futti nulla, eppure tu lo sai, no? Attacchi, parli, non mi interessa, ma questa parola è 40 e 3, ciao, io già rimango in hobby, non mi interessa più niente, quando c'ho voglia e tempo, allora le cose le faccio, se no c'ho biglia in culo. E altrettanto ti dico, vabbè dai, vi saluto che adesso devo fare cosa? Sentiamo alle prossime, là. Ciao a tutti, anche a quelli che ascoltano. Ciao Tattari, ciao Lugarie. Piazzate l'antenne, piazzate. Voi sì, ce l'avete i soldi, gatta. Ciao Natali, buonanotte. Per carità, quasi non un cacchio d'antenne, insomma, un casino. Mi sa che metto un traliccio qua da 500.000 metri e vi ammazza tutti. Cosa, dunque sì, è una goccia, a passo zero, tu prendi un pallone di chi si, no, lo gonfi a Cosio, dici, ma ti si chiama, in solitazione in aria, no, e li metti sopra una retina, una base magnetica con un'antenna, una PLC 800, e tiri la lenza 50, 60, 70, 30 metri in aria, ti vuoi fare il cavo, però reggi 58, 1987, fine 87, da Bartolomeo di Chisiel, Porto Torres, sono per la giornata di domani. Abbiamo fatto questa prova, facendo salire il pallone con un'antenna a base magnetica di macchina, no? Cioè la prova era anche Giuseppino Quercialoro, Cicito Gambrone, il padrone di chi vi devo guardare, che era a Platanona, alla Maria di Sosso, c'era povero Giuseppino Gambrone, così chiamato, noto Giuseppino Quercialoro. Ci siamo spaventati, l'abbiamo tirata su 50 metri, una massa intera da 50 metri e da 10-58, attaccata alla radio di Bartolomeo e Giselle, Sassari, che sto parlando, allora c'era gente anche di mattina a Sassari, Sassari arrivava a 9:40. Ti credo, l'azoto. Bravo, guarire, l'azoto, un pallone, l'uffi l'azoto, lo tiri su attaccandoli bene, muro a scorcio, dimenticati voi tu, un'antenna di macchina, e la tiri su, e la massa andrà a base, metri, e poi mi dice che avevi ragione, mi sono spaventato. Allora, l'aveva risposto a povero Bartolomeo, ci aveva risposto a Antonello Electronic, Bartolomeo, Mando Electronic. Prova risposta, ma non è possibile, tu sei a Sassari, Bartolomeo, no, io sono a Porto Torres, allora non c'è la possibilità di fare fotografie, non c'era WhatsApp, non c'era nulla. E non ci credeva, siccome io a Nando lo conoscevo molto bene, gli ho detto Nando, ho preso il microfono, ho detto Nando, sono Carlo Sparviero, ho detto ciao, guarda sono qua, c'è anche Giuseppino Quercialoro, c'è anche un altro CB di Porto Torres che era Francesco Muresio, Francesco Diem, siamo in 4-5 qua, già c'era la bonanima di Gavino Carciofo, ho detto siamo belle persone, abbiamo fatto questa prova, ho detto allucinante, sai arrivando a Sassari Barbecca, 9:40. Antonio ha fatto una domanda, la massa come l'ha fatta? No, tu prendi la base magnetica della macchina, la base magnetica normale, non ne ha bisogno di massa, assolutamente, la base magnetica c'ha già la calamita con la sua base, no? Attenzione, state molto attenti a queste stronzate però, la base magnetica irradia sul piano di massa della macchina, perché deve avere praticamente il piano della massa, perché deve fare la calamita, ma quando è in alto così, non ha bisogno di piano di massa. È strano, è stazionario, non viene nemmeno 50 metri di cavo, guarda, sto dicendo, non arrivo giornata da mano, era una prova che dovevamo fare da sempre, qualcuno la voleva fare con Sassari, e faccio nome e cognome, la volevamo fare con Antonio Robert, non l'avevamo più fatta. Ma una cosa, veramente, se io vado a piazzare segni e faccio una cosa del genere, che lo busso là, che sono guardato, ma tu lo busso là, nessuno mi può impedire di fare esperimenti in strada, ok, a te magari non lo so, però a me nessuno mi dice niente. Metto un tavolino lì, metto un pallone dell'azoto, lo tiro su 50 metri, io devo dire che mentre arrivo in capo al mondo. Prova! E il cazzo gioco qua a 50 metri, le 10:48, buona partita la bui. Non me la fotti nulla, io ho già fatto le prove. Per dirti, Anto, che molte volte, la posizione vuol dire tanto. È inutile che continuiamo a romperci le palle, quanto ti arrivo, quanto non ti arrivo, a 100 metri, a 200 metri, lì nel circondario. Le prove si fanno fuori zona, e quando uno arriva bene fuori zona, ti ascoltano tutti, vuol dire che tu c'hai un impianto serio. Ma io, grazie a Dio, già per il mio piccolo, quest'anno con il DX anche mi sono divertito parecchio. Nel mio piccolo faccio la mia parte. Io ho perso i segnali dentro Sassari. Perché ho perso i segnali dentro Sassari? Non di molto, però li ho persi. Perché ero più vicino a voi, niente di tutto ciò. Allontanandomi non ho perso niente. Io ascolto Aldera 9+20, ascolto Thierry, ascolto Oschi, ascolto Budusò, ascolto Alessardi, ascolto la zona di Olbia, ascolto la zona di Ura, ascolto la zona... Come ero prima, non è cambiato niente, niente, assolutamente niente. Ho perso solo qualche punto S all'interno di Sassari, nel circondario di Sassari, perché sono allontanato. Ma basta, basta, è quello che tu devi vedere tu. Non devi dire quando arrivi a Gianni il Buffetto, quando arrivi a Coso, a Lucano, che siete tutti lì nel circondario. Devi vedere quando fai le prove, quanto arrivi a Porto Torres, quanto arrivi ad Alghero, quanto arrivi da due o tre parti. È lì che si fanno le prove per vedere se uno ha migliorato o meno. Capa. Ma comunque nel mio piccolo io già mi posso sentire abbastanza, mi faccio sentire, arrivo da tutte le parti e sinceramente da quando ho l'antenna sul tetto sono molto, cioè mi ho tolto un peso che io c'avevo, ce l'avevo sempre qua a me, sempre un disantenna nei rubacconi, no? Non mi intendia nessuno, non so. Io ho sfruttato tutta la palla amatoriale perché sto facendo dei piani nuovi, sto facendo la strada nuova, eccetera. Oggi, non so se Luca mi ha sentito, mi ha fatto, ho fatto le prove col portatile, con i portatili, sia V che U, ok? E arrivavo da tutte le parti lo stesso, ma l'antenna in gomma, però me, l'antenna in gomma. Se non mi sentiva nessuno. Scappa, no, già a voglia. A voglia che va bene. È inutile, ci vuole posizione e antenna, soprattutto sulla 27 che è un po' particolare, che se non va antenna non andrà a lungo. Mi hai sentito? Ecco Luca, ti hai liberato il microfono. Ah, ho detto, soprattutto con la 27 ci vuole l'antenna, non c'è niente da fare. Se non va l'antenna decente, no, non andrà a lungo, non andi, ma non andi brutto a lungo. Allora io qua, quando sono Pinocchi, sono contento, sono rinato. Ah, finché da tocca passa sempre, mamma mia. Non lo so. Sono venuto anche a tutti, devo fare i complimenti, c'è una bella casettina, accogliente, stai bene, è bella e non ti manca nulla. Tranquillo, sereno, continua a fare quello che stai facendo, te lo auguro veramente col cuore, perché sei una persona che lavora, è una persona che si toglie le soddisfazioni, piano piano, senza lasciare niente indietro. Bravissimo, così devi fare. Io ti ripeto, io sono entrato in radio nel 1974, ok? Quindi non di esperienza dietro le spalle. E a Porto Torres tutti avevano la Grand Prix, io avevo la Super Rangibus, fate un conto, capito? Avevo la Super Rangibus e avevo il Simba 40 canali. Anzi, avevo prima il Tenco 23 canali e poi ho preso il Simba 40 canali e tutti erano in gruppo veicolare a Porto Borgo e con la Grand Plane solo io e Davino Carciofo Buonanima avevamo la Super Regibus, perciò che è simile alla Mantova. Allora, bisogna vedere nel 1974, fate un conto. Capo, scommetto che c'è il mio posto di tutti, così è. Però una cosa esagerata a volte, ma non perché avevo la mania della potenza, perché la posizione, mamma era il centro storico, capito? Mamma era il centro storico lo stesso, e quindi da lì puntava un bel. Il segnale che io mi ricordo che mi era passato era sempre 995 995, e lineare non ne avevo. Il Simba usciva intorno ai 5 watt e mezzo così modulati, e invece il coso, il accendiamo con 4 watt. Però ci avevo il panner più 2 da tavolo, comprato, l'ho appinto, c'è scarpa in via Cavour, allora, capito? Quando sono andato a comprare il panner più 2 da tavolo, avevo comprato anche, allora, in quell'anno, l'HB23, gli sia una bomba, con chi sul microfono, una bomba, ed è quella che col cuore, e sottolineo col cuore, ho regalato a Giulio, capito, l'HB23, ed è ancora funzionante quella radio. Ma non l'ho più sentito. No, ci sono sentiti per telefono e ho impegnato a fare altro e in questo momento non è disponibile ad entrare in radio, ma già è tranquillo, non ti preoccupare. Ma meno male, me la sa benissimo, sono contento. Se non stava bene mi sarebbe dispiaciuto. No, tranquillo, ci siamo sentiti da poco al telefono e altre cose da fare, quindi è un po' assente, però già è tutto sotto controllo, a volte ci ascolta, quindi non ci sono problemi, anzi se ne ascolta un saluto, un abbraccio a Giulio, capito, a tu. Quindi l'esperienza ce l'abbiamo fatta tutti in radio, perlomeno i vecchi, tu sei più giovane, ma i vecchi come me, come Giulio, come Gio Maria, come tutti i vecchi che ci sono a Sassari, quelli insomma di una certa età che hanno iniziato a ragazzini, ce l'abbiamo fatta l'esperienza, tu, ce l'abbiamo fatta. E il motto di tutti è sempre dare modo alle antenne, antenna buona e impianto buono, perché uno può uscire anche con un semplice baracchino del cacchio, però se c'è un impianto buono, una posizione buona, un'antenna buona, tranquillo che ti impegnano i buchi. È normalissimo che sia così, cappa. Purtroppo, perché domani l'antenna è andata a Vacone, non puoi pompare, che ti brucia tutto, no? Poi ma no, cioè, ho avuto anche io questi problemi. No, io grazie a Dio non ho mai avuto problema di Vacone, di nulla, io a casa di mamma, casa singola stessa al centro storico, che ancora mamma abita lì, c'era il terrato, adesso abbiamo sollevato il piano, a 3 piani, ma prima era normale, c'era piano giorno e pianotte, basta, adesso a 3 piani, quindi terrazzo non ce n'è più, c'è il tetto, ma prima non c'era il terrazzo, io ci avevo la Super Range Bush, e basta, non c'erano altre alternative, né grandi poli, cazzate, nulla, la Super Range Bush è buco, pochi metri di cavo, sempre di 58, perché cavo erano quelli, poi è uscito l'RG8, che era borso del ballo, ho messo anche quello, però l'esperienza ce l'abbiamo fatta, e con andare del tempo, oggi a distanza di 40 anni, 45 anni, 43 anni, tanto so, siamo sempre qua, ogni tanto facciamo qualche miglioria, però siamo sempre noi, e sentiamo sempre, tutti. Già lo so, alla fine... c'è chi è veramente una persona intelligente, è sempre una famiglia, perché alla fine va a finire così. No, secondo me, ho sempre detto, io ho sempre pensato che sia sbagliato odiarsi, come faceva certe persone, che non voglio fare il nome, cioè io sono sempre stato il contrario. Perché per me non ha senso, perché tu vai, ti intendi un gnadì e poi magari ci esci qualche volta e cosa, ma che senso ha bisticciare e fare e cavarsi nei rocci? Per me non ha nessun senso. Io non sono d'accordo con te, e che senso ha che una persona che conosci, non è che sia amico, che senso ha? Stai attento, e tu sei di qua sto parlando. Ne abbiamo già parlato anche. Che senso ha che una persona che tu conosci, è sempre stimato, è sempre rispettato, c'è sempre stato normalissimo, però non è un tuo amico, cioè un conoscente, non sei mai uscito assieme a lui né niente, ogni tanto fa piacere che ti senti, un messaggio, una cosa, una settimana prima messaggi, e la settimana dopo a me mi arriva un messaggio, ti pugni se vendo a pezzi, che senso ha quello? Dimmi di cosa stiamo parlando, di persone vigliacche, di persone che valgono meno di zero. Poi perché, scusami, perché io dovrei fare a pezzi a te, che senso ha? Ma ci mancherebbe altro, se c'è una cosa sbagliata io te la dico e basta. Sì, ma non hai capito quello che dice, non sto parlando di te, anch'io sono così, io le persone le affronto in faccia, capito? Ma talmente la vigliaccheria delle persone, la falsità, non lo so, la gelosia, non lo so, che la portano a fare queste cose sbagliate, che non serve a niente, perché tu devi farmi a pezzi come un tuo amico e poi non sai che quel tuo amico stesso a me mi gira il messaggio che hai fatto tu, io come ci rimango di merda, capisci? Esistono ancora queste persone? Ma io no, non le voglio, non le ascolto. E non mi interessano quelle persone lì, perché io con voi ci sono tutti i giorni, con Luca mi sento tutti i giorni, ci siamo anche usciti assieme e cosa, io le do tanto di rispetto, tanto di cappello, come do rispetto a te, do rispetto anche a lui e a tutti quelli che con me ci sono fatti con me, perché no. Ma queste cose non mi piacciono, io tutti i giorni qua, io lo sento, sono persone che mi vogliono bene, non vedo il motivo perché dovrei, posso dire qualche battuta scherzosa, come si fa tutti insieme, sai com'è, ma cioè per me, cioè, sono amici come che se fosse una famiglia, perché alla fin fine se ci stai ci parli tutti i giorni, qualche volta ci esci e qualche volta che c'è, cioè, per me è così. Poi ma come hai capito quello che ti ho detto? Hai ferrato il discorso che ti ho detto? Ne avevamo anche parlato, no? E non so, Guglia, perfetto, ancora buon tempo, le poche parole. Io perché mi sono un po' staccato da tutto e da tutti, a me ognuno a me può fare quello che vuole, usare quello che vuole, prima ti ricordi la sillante, qui non fare quello, fare quello, non puoi fare, no, non me la fotti più nulla a nessuno, perché sto bene per i cazzi miei, punto, perché persone del genere io non le schiaccerei la testa, no, ma le farei molto molto di più, capito? Perché sei un vigliacco, sei una persona che vale meno di zero, assolutamente, perché se mi chiami una settimana prima e mi dici ci vediamo che ti do questo e dopo qualche giorno a me mi girano un messaggio con la tua voce, fendimi a pezzi, vuol dire che tu non sei una persona seria, tu c'hai qualche problema mentale, ma veramente, perché ho sempre stimato quella persona lì che ti ho detto, sempre, l'ho sempre rispettata e l'ho sempre, non è amico mio, per carità, non siamo riusciti assieme, però abbiamo avuto sempre il massimo rispetto e non me lo sarei mai aspettato, è passato del tempo, ma per me è sempre zero, e rimarrà zero. Ma guarda, persone così non dovrebbero neanche esistere per me, per quanto mi riguarda, ma io dico questo, ma puoi stare bene con queste persone qua, come noi, come ogni comune, possiamo stare bene tutti insieme, ma cosa è da giudicare a pezzi e cosa? Guarda, io so tante cose di tutti e di tutto, perché quando è che però io, per non bisticciare, per non aver discordie, io me lo tengo per me. Io me lo tengo per me e basta, finito il discorso. Perché io devo andare a far bisticciare le persone o mettermele contro? Assolutamente no. Poi magari con una certa pacatezza, con una certa cosa, poi te lo spiego, guarda che so questo, ma non è che mi metta a farti a pezzi, capito? Che è ben diverso, maledetto Ghizzo, ma è vero, non è vero, ma non che io vada a prendere il porchettone, cazzo, per farti bisticciare, quello a me non piace. Tu, perché così la realtà è quella? Però ti ripeto, ribadisco che esistono ancora delle persone che siccome hanno talmente la lingua lunga e talmente sono abituate a fare mezzo leggeramente, invece se vediamo il campo di Gugusuia che è tutta gaggata, forse era meglio, vanno a criticare persone che manco ti cercano, manco sai come vivono, come cosa hanno, cosa non hanno, ma che vai a cercarla, è lì il discorso, capisci? È lì il discorso, e ancora esistono, perché ti ripeto, tutto mi sono aspettato nella mia vita, tutto, di tutto e di più, prima mi sono fatto sempre a pezzi, non c'è problema, facciano sempre quello che voglio, io al mio posto sono, e grazie a Dio, soddisfazione me ne sono tolte tante, e sto continuando a togliermene anche a 62 anni. Però che a me mi potesse arrivare un messaggio su WhatsApp con la voce di questa persona, a me me ne sono scesi i coglioni. Lo dico, papà, veramente ci sono rimasto di merda, te l'ho già spiegato. Perché non capisco il nesso del discorso, ho capito? Se la radio è fatta per esprimere i giudizi, i problemi, cosa ti posso dire? Qualsiasi tipo di cosa possiamo esprimere in radio, no? Essere per dire favorevole a una cosa o no, cioè ci scambiamo tante cose. E tu ti metti a ascoltare, registri, poi mandi a Tizio, e Tizio però tu non sai che amico mio, me l'ha girato, ha fatto una villa di merda, ti dicevo di Zendi, sono passati anni, e ancora di Isabelli, il diragato, il bazzigaggio bravo. Per carità, lasciamo perdere qua, perché no, non ne faremo ancora bene, gente così mappagosa, io dico. Ma perché comportarsi in questa maniera? Se possiamo stare tutti pacifici, possiamo stare tutti bene. Cazzo, quando capiteggia, se avremo da mangiarsi una vita tutti in pari, lo possiamo fare. Cioè, e passare, ragazzi, una bella giornata, tutti insieme, ma fa cosa? No, io non capisco. Niente, la malattia la malattia di che dolce, ti ripeto, sono passato, è passato tanto tempo, la mano non mi interessa niente, io te l'ho spiegato, ho fatto il signore, la prima cosa che ho fatto qui, bloccato su WhatsApp, bloccato il telefono, ogni addanto ritengo di entrambi, ogni addanto ritengo, e come vedi non mi sono mai permesso di disturbare, di fare. Però sappia sempre che nella mia mente, un diagato, un babbo, un rubrificio. Ragazzi, non rimane ma qua, oh scusa lui, uia, ci siamo dimenticati di te, mamma, avanti qua, ci siamo dimenticati di lui. Claudio, ci sei? Sì, che sta provando a passare la caldaia, ho messo uno, ma adesso 5 minuti poi la spengo, dove sono sul caldamuio, sono maniche corte, capito? Questo è un discorso anche per chi ascolta, cioè nel senso che a volte bisogna stare anche attenti con chi esci, con chi fai, con chi frequenti, perché molte persone sono cattive, capito? Ti fanno una bella faccia al cattivo gioco, capito? Tutti siamo amiche, a voi amici riguanti sul palmo della mano, veramente. Io te l'ho già spiegato, tu mi sono ritirato, ma non ho fatto più da nessuno. Però ti ripeto, quello che ho subito in radio non l'avevo neanche al pigione nemico, guarda. Perché mi ha sempre fatto a pezzi, borsi in mezzo, qui, dei bomba, senza mai sapere niente, senza mai non ho fatto niente, ma no, ma tu, ma qui io, ma no, non sono manco di cosa si fa i denti, capito? Cose assurde, cose, quindi, ha detto, basta, a me, avevo deciso quando sono nato con la radio, io avevo 14 anni quando ho iniziato a parlare radio.